L'esposto l'abbiamo depositato la prima volta, dico la prima volta perché abbiamo avuto dei problemi tecnici. L'abbiamo depositato la prima volta il 28 febbraio. I tempi di risposta non si sanno, riguarda un qualcosa di prettamente amministrativo, cioè richiesta, bando, controllo del bando, controllo di quello che definiva il bando, finanziamenti, come sono stati usati, come non sono stati usati e soprattutto se questo ha comportato delle appunto le criticità di cui io sospetto e chiedo verità. Verifica e chiedo comunque un chiarimento Senti, cioè, all'amministrazione comunale. adesso. E il punto è che ho fatto presente che anche come consigliere di quartiere io non ho ricevuto mail. Io non ho ricevuto mail per il percorso. Io ho rispetto dell'istituzione. Se un'istituzione si comporta aggredendo un cittadino che ti sta dicendo una cosa vera, anche se ti mette a disagio, però sta dicendo una cosa reale. Cioè, fu l'architetto Cavarocchi che introdusse l'argomento perché nessuno di noi sapeva che sarebbe stato lì. Quindi anche io non è che mi sono allarmata. Poi ci siamo allarmati, ma Cavarocchi ha detto: ma se era un bando a consumo di suolo zero, tu non puoi limitarti a trattare male una persona, quindi ad arrabbiarti. Addirittura a ventilare delle querele perché questa persona sta dicendo una cosa che è riscontrabile agli atti sul sito del comune, cioè il bando è lì, cioè lo può leggere chiunque. Si può uscire da questo impasse? Cioè, c'è ancora secondo te margine per riaprire un confronto, un dialogo, oppure sarà, Noi continuiamo con questo non momento l'abbiamo mai comune? negato. L'ho chiesto quando sono stata insieme al comitato il 26 gennaio al consiglio comunale. L'ho chiesto per mail come tramite anche del comitato, quindi come consigliere il 5 di febbraio. Ho chiesto subito una commissione sul MUPA per capire. Questo era gennaio, non ho mai avuto risposta. Sono successe cose molto molto spiacevoli. La cosa che a me lascia spiazzata è che è una questione meramente amministrativa del territorio, non stiamo parlando di chissà quale altra situazione. L'abuso della forza dell'ordine per risolvere queste cose. Cioè, io non vorrei dire, però ricorda dei momenti molto bui in questo paese. La richiesta è molto chiara, le richieste sono molto chiare. Intanto di interrompere i lavori perché ritengo che la tutela della popolazione prevalga sull'interesse finanziario e di gestione comunque di edilizia. Che dopo 3 mesi di assoluto silenzio e di non risposte, di mancate risposte anche a me, magari decida di interloquire con qualcuno di noi. Se finora c'è stato un rifiuto categorico a qualsiasi forma di confronto, ritengo che questa cosa debba finire immediatamente. Immediatamente io chiedo questo al sindaco Lepore.